esultino il deserto e la steppa, gioisca e fiorisca l'arida terra. Come il colchico fiorisca abbondantemente, gioisca con gaudioso tripudio. La gloria del Libano le è stata data, lo splendore del Carmelo e del Saron. Vedranno la gloria del Signore, lo splendore del Carmelo e del Saron. Irrobustite le mani fiacche, rinsaldate le ginocchia vacillanti, dite ai cuori sconvolti: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene con la vendetta, è la retribuzione divina, egli viene e vi salverà. Allora si schiuderanno gli occhi dei ciechi e le orecchie dei sordi si apriranno. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché le acque scaturiranno nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. Il suolo bruciato diventerà una palude e quello arido tutto sorgenti di acqua. I luoghi in cui riposavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Vi sarà una strada pura, sarà chiamata via sacra. Nessun impuro vi passerà e gli insensati non vi si aggireranno. Non vi sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, ma vi cammineranno i redenti. Vi ritorneranno i riscattati dal Signore ed entreranno in Sion con grida di gioia. Eterna allegrezza sarà sul loro capo. Letizia ed allegrezza li raggiungeranno, mentre fuggiranno afflizione e gemito.